vedi cosa c'è? C'è qualcuno che mette sotto, si mette sotto, sarà per quello. Sì, ti sentivo benissimo, non c'era problema, andava benissimo. Vediamo se qualcuno vuole entrare avanti, chi è qualcuno vuole entrare? E uno che vuole disturbare, quello sarà subito un efficiente che è tutta la serie che cerca di disturbare No, giù. E quando ti metti a modulare il tuo che si sente questo rumore? Se fai un passaggio, aspetta un attimino che metto in registrazione, ti faccio sentire la registrazione con il video. Allora è una propagazione. È la propagazione allora che fa effetto. Giulio, la portante, fidati, va da 9:29:30. Appunto, è la portante che c'è, è quello, è. Ciao Gianni. Ciao, buonasera a tutti, dai. Stavo ascoltando, come ha sentito la portante, dopo stasera non moduleremo, dai. Appunto, c'è sempre il sottoefficiente che vuole cercare di disturbare, ma fra me e Danilo non può disturbare per fumare niente. Va bene, dai, già, vediamo se è rientrato Danilo. Sì, ti ho anche già inviato il video. Anzi, ti sta arrivando fra un po', che sta caricando. Sì, ciao Gianni. Ciao Dani, sei una portante, dai. Anche perché c'ha dei picchi positivi, lo vedo, che come mette la portante va da 9:25, 9:20, 9:25 va 9:30. E quel rumore non lo senti che fa wu. Sì, quello è come si dice la portante. Infatti, non è uno che disturba quello lì. No, ma infatti già da quando stava iniziando a parlare ultimamente ci sentiva un pochino di più. Raga, andate. Volevo fare un'ulteriore prova. Potete dirmi se c'ho la chiamata? No, per niente. Quando ti sei stato zitto ho alzato anche il volume per sentire, niente, zero. Ok, vabbè, era il filo allora, dai. Volevo fare una prova, non sia che mi faccia di nuovo con difetto. Va bene, dai, continuate che io sono in ascolto, sempre che ci lasciano ascoltare e modulare. Soprattutto quello. No, perché ogni tanto c'è il bambino che si diverte a premere la portante per far vedere che lui è un pochino più alto di noi. È un solito imbecille che c'è tutti i giorni cerca di risolvere, capito? Si vede che non sa cosa fare e allora rompe le scatole alla gente. Lasciamolo fare. Gianni, ma comunque la tua radio è perfetta, non c'è nessun rumore, nessuna alternata, niente, perfetta. Perché ti stai ritirando? Non puoi rimanere qua. Sì, ma mi ritiro perché quando sento queste cose, Giulio, lo sai come sono fatto io, non mi viene voglia di modulare. Questo qui ce l'ha, sicuramente è con te, ma sta disturbando a tutti. Lo so, è tutta la serie che rompe le scatole. Anche l'altro giorno, se io e Gianfranco lo stesso stava rompendo le scatole, ma comunque ci sentivamo lo stesso, lui continuava, lasciamolo fare, cosa vuoi che ti dica? Vai, Dani. Sì, poco fa quando stavi modulando giù, che è bloccato un attimino, c'era un segnale a 9:20. Non so chi sia, però qualche vocina già si è sentita bassa. Io so, c'è sempre quello che si è appena guato la sera, non sa cosa fare, e allora cerca di togliersi gli occhi così, cerca di fare quello. Ancora non ci è riuscito però a togliersi gli occhi, ma prima o poi ci riuscirà. Cosa vuoi che ti dica? Ah, per togliersene gli occhi non conviene più seccarsi le dita. Evito ogni tanto mandare la portante, sempre il solito efficiente. Vabbè, comunque, lasciamolo fare, prima o poi. Mette il piede in bruccia anche lui. Vai Gianni. Probabilmente non so cosa fare stasera. Non lo so se io riesco a passarlo, se modulo, se riesco a passarlo, non lo so. Vediamo un pochettino come va. Sì, per me lo passi. Per questo segnale che mi sta arrivando, per me lo passi. E da te, Giulio? Ehi, tu, non esiste, ma anche quando parla da Danilo, non esiste proprio lui, ma nemmeno per sogno. E no, se non te l'ha portato, se non ti lascia parlare, esci tutto spezzettato. Non so, lasciamolo fare, lasciamolo fare, che lo faccio una pezzina, al banco dell'ospedale. Questa qua è una bella. Non ti puoi aiutare. Perché se lo fanno a pezzi, non va bene. Ha voglia. Però gli devono sconciare tutte quante le ossa. Quello è il campanello della madre, di casa sua, della madre soprattutto. La vita ha soffiato per le gambe della madre in questo momento. Beh, ha ruttato in poche parole, si è sentito buono. Non sa cosa fare che rompere le scatole. Era un appennacchio, forse da Falcone. È un bel elemento deve essere. Quando mai non è capace di mettersi davanti a un occhio e dire quanto sono efficiente, così dovrebbe dire. E comunque ogni tanto da segnali di 9.20, a volte 9.30, a volte 9.40, secondo me si gioca anche con la potenza. Perché ha due antenne, ha due antenne. Non respira bene giù, e se si fa colpo. E adesso ha messo la portante anche a Natalino, ciao Natalino. Non so, perché ha due antenne, ha due segnali, forse non lo sa che lui, non l'abbiamo capito che, forse non ha capito lui, che ne sappiamo più di lui, molto di più. Sì, buonasera a tutti, ma tanto io, quello che entro, può disturbare quello che vuole, ma Giulio tu arrivi bene lo stesso, anche se lui mette la portante, qua arrivi bene. Ti stavo mettendo la portante, ma l'hai passato anche tu Natalino, non c'è problema, l'hai passato lo stesso a grande. Avanti Gianni. Rimango un attimo al Quarix che si rispondono altre. Va bene, vedi, prendi tu allora Dani. Sì, comunque anche a Natalino si sente quel rumore che si sente a te Giulio. Se te lo sto dicendo, mette la portante, perché mette la portante a colpi, mette la portante. E lo pagani a un ciassone, un buon, mi ha seccato, tanto blito. Ma sulla mattina mi sta squillando il cellulare. Ok. Lo prendo Natalino, adesso mi riesco a vedere il cervello col disgraziato. Ma non respira bene, io lo sento che non respira bene questo. Dura poco, tra poco crepa. Vabbè, non respira pure, no, è con l'asma, è per quello che non respira bene. No, sai cos'è? È il solito. Senza le gambe della madre, è per quello che ha fatto la tasacchia. E cosa vuoi, Giù? Purtroppo non fa bene. Respira male, lo sento in agonia. Ma è convinto però, è convinto di fare questa cosa. Forse non ha capito che non ti passa, non ha capito ancora. Anche in banda laterale se n'è andato adesso, comunque dovrei passarlo ugualmente. È una persona grande, non ti credi che sia una cosa simile, è una persona grande, abbastanza grande anche, ma comunque, vai a vedere, vai a vedere, perché non c'è da troppo questo, vediamo, vabbè dai, vi lascio il vostro questione se ve lo lasciano fare, io vedo, tanto vi ascolto lo stesso anche se lui mette la portante. Ciao a tutti là, quel RX per me che sto mangiando. Ciao, ciao, da tanti. Vabbè, tu a questo accendi sempre per i motivi che sappiamo, ma comunque va bene, dai. Non è un problema. Anzi, è meglio cenare presto la sera, così almeno durante la notte uno riposa meglio, perché ha già digerito quando andare a letto. Io ho finito di fare la conversazione al telefono, fra un po' vengono che devono vedere un lavoro. Ok, dai. Va bene, va bene. Si è messo anche in banda laterale per cercare di disturbare. Cade imbecille, non ti rende conto che stiamo parlando? Ugualmente non disturbo proprio niente. Cante imbecille. Ah, volevo uscire ancora più forte. Così è. Oia, oia. No, è allucinante allora questo qua. efficiente, vogliamo che sia, non è il gabbo, non è niente altro, niente di più, è fuori di testa e basta. D'altronde, quando è malato, è solo da ricoverare e basta. No, ma secondo me c'è qualche disturbo. Ma buona, intanto allora già, così come siamo adesso già non ci passa. Se deve passare deve aumentare un pochino, però già non ci passa così. Meglio. E beh certo, lo passava nemmeno. Non passava, noi siamo come vicini. Io passavo da lui e lui passava anche da me, per cui. Mi hai sentito noi? Ehi, te ne vai, mandala a terra, convinto di mi fa disturbare, convinto e sono marito. Sinceramente mi fa pena. Uia, uia. E di dove è Natalino? Da dove modula Natalino? Da Sassari Vecchio. Ma Natalino chi è? Quello che usava il portatile, quello lì è? No, Natalino Alfa 1, un vecchissimo CD, zona mercato, insomma, modula, da quella zona lì. Sua, ah, ok, perché Sassari Vecchio verso quella zona del mercato, appena più giù, appena più giù del mercato, più o meno, da, e c'è, se non sbaglio, una Mantova normale, una Mantova turbo, ed è, mi sa che era sua allora, perché l'altro giorno ne stavo parlando, infatti ho detto, chissà di chi è quell'antenna, pensavo che fosse di Antonio, invece no. No, non è una Mantova, comunque è sempre una circolazione, lo stesso, non è una Mantova, però già è quello, un po' più giù del mercato, hai detto bene. Sembra una Mantova da lontano, perché è bella, bella massiccia come antenna. Io da lontano l'ho vista, non è che mi sono messo proprio a guardare sotto casa sua. Comunque stavo piazzando l'antenna a un collega e ho visto questa antenna e gli ho detto, questa qua sicuramente è qualcuno che parla insieme a noi con il baracchino. Ah, ci ho capito chi è, sì, ci ho capito. Meglio saperlo che era lui. ok, beh certo. Certo che sì, il Natalino è una vita che frequenta, non è a Ugino, è uno che ci sta 40 anni più o meno, all'incirca, prima era su al Monte Alto, poi invece si è trasferito qui, lì, in quella zona lì che ti ho detto. Va bene, e la sera ogni tanto già ci sentiamo, quasi tutte le sere entro a salutare, e poi però quest'ora deve chiudere per problemi suoi, e dunque è chiaro che a quest'ora deve chiudere, insomma, magari all'ascolto. Non lo so, dai Giulio, adesso chiudo che sta arrivando questo amico, dai, già ci sentiamo un altro momento, dai, ha fatto piacere fare questo QSO, dai, almeno abbiamo passato qualche minuto insieme, dai, ci sentiamo, ciao. Ok, ciao Dani, ciao. Un'oretta buona, anche più di un'ora insieme in questo canale. Va bene, ciao Dani, alle prossime, dai, grazie per la chiacchierata. Ci sentiamo, ciao ciao. Anche il campanello di casa sua ha fatto suonare, mi fa. No, è quella prostituta della madre che ogni tanto lo chiama e dice, soffiami qua e mi dà le gambe, così le dice. Ah, così è. Capito Natale? È così, le la chiede la madre, no? Lo chiama e lui dice fai così, e lui subito va e fischia. Andiamo, dai, ci sentiamo che sto facendo cose, no? Alle prossime, ciao a tutti. Ok, ciao Natale, ciao. Buon divertimento, allora, ci sentiamo. Sì, e vabbè, tanto sono già le 7:20, più o meno, quest'ora. È già quasi ora. Ci sentiamo, ciao di nuovo, Natale, alle prossime. canale 10. CQ canale 10. Avanti, che chiama sul fondo. Hola. Attenzione, nel canale 10 c'è qualcuno? Sì. Questo che ho preso è migliore, con l'H500 500 ci prestano bene. Ci vuole quella fusione, capito? Sono migliori. Capita. Già cercate, provate, comprate, buoni. Purtroppo è questo il capo di discesa. Tanto, se posso un pochettino, se mai più tardi, sì, entro. Ok, dai. Beh, ci stiamo un po'. Ciao. Via, ciao. Buonasera. Ehi, buonasera, butto d'orra. Buonasera. Chi è che c'è il buon controllo? Guardo lontano, un po' per rispondere. Eugenio! Ciao Gianni, buonasera. Cacchio Gianni, dalla baracca qua, Gianni, buh. Oh, ciao sì, buonasera. Uioia, guarda che a breve mi devi scaricare una cosa. Uia, fammi sapere, è stato tutto? No, domani. Ok, so con te, sono andato. Così approfittiamo, ci conosce anche il posto. Non problema. Ciao Antonio. Buonasera Tina. Vabbù dai che sto confezionando, ok? Ci sentiamo più tardi. E a capo. Eugenio, a bordo Torres, mi senti? Cos'è Eugenio? Buona, buona faccia di asfalto, buona veramente, guarda già sta un po' cosa buona. No, è altra roba, è salsiccia, dai. Questo ormai è già stagionato e devo confezionare. La salsiccia ha stagionato, buona. Andare, bravo. Complimenti. Ci sentiamo dopo, vai, che facciamo cosa, ragazzi. Ciao, Anto, a dopo. No, ma non ha il controllo, non arriva Burro Torres. Tu, come sei sempre? Veloce. No, ma che c'ha giù a conto, ha già conto l'UBL. Perfetto, come sempre, perfetto. Abbiamo fatto i 5 modulati, sì. Già, va bene, va. Andare, come sempre, perfetto, ci sentiamo tra un po', ciao. Ciao. Ora, attenzione canale 10, c'è qualcuno, capa? Ora va meglio però, vedi? È tornato a essere lui, il PL stava rompendo. Attenzione canale 10, c'è qualcuno, capa? Sapere se era tutto a posto qua. Sì, si stava ridendo. Sta controllando un computer. Alai, non sta trappando niente. Perché mi sono accorto che il PL non andava più bene, capito? No, non si è trappato. Capo, adesso azionare il son bus. Sì. Poi adesso va bene. Ma il segnale è aumentato la luce. Prova. 1, 2, 3, prova. No, lascia proprio lo stesso, fuori su 3, sì. E allora va bene adesso. Sì, a Puglia. Cappa. No, perché mi sono accorto, stazionare blu più 00. Puglia, e schifo, io non gozzo. A Puglia che va bene. Sta anche spingendo parecchio, Prima avevo dei piccoli problemi, adesso sta andando un po' di potenza. Adesso va bene, dai. E a voi adesso. Hola, chicos. Adesso ha riacquistato la sua potenza, raga. Yuhu! A posto, cavolo, adesso sta facendo un bombo, a chi prima lago, non durava già mai da dove, che cazzo di barcarità di BL, quelle macchinette mi ha dato problemi. Ecco, vedete se funziona, dai. Comunque il PC sono riuscito a farlo partire, dai. Ovvero? E cosa va? Comunque quel PC che hai avuto l'altro giorno, ci stavo pensando un po', Tu è nuovo, L'unico problema è che la batteria, è perfetto. Cioè, la batteria si può trovare. Certo l'altro. Cioè, ci stavo bene, adesso c'è un pochettino di rogne da sistemare. Però ci stavo stavo pensando veramente lui. Scegli. Ciao, papà, quando ci tengo un po' di rogna, se ce l'ha ancora mi sa che lo piglio. Non c'è problema, aspetta un attimo, volevo da caricare il computer. Eia, ma l'HDMI ce l'ha? Secondo te, che faccio lì vicino, la c'è il controllo, mi sa di sì. Ora, che tanto quanto funziona per la papà? Anche da lontano. Ma tu la che porta HDMI non ne ha, ne ha tre USB, ma c'è l'adattatore comunque, che fa la VGA, HDMI lo vendono. Vabbè, e comunque già va bene, dai. A voi che va bene. Caffa. No, pigliamo il coso, pigliamo, come ti dici? Più o meno ho intenzione di prendermi il proiettore. Piano piano, d'accordo. Le cose vanno piano piano. Quando puoi, come hai fatto con la radio, no, uguale. Caffa, 59 euro costa. È una cavolata. L'altro, quello in full HD, costa un po' di più. Già va bene, dai. Ora comprato babbo una bomba, vai agli Abruzzi, la futura. E va bene. Certo che va bene, adesso per un po' me lo piglio pure io. Ma si tende la cosa, la propagation. Sente? E ci ha aumentato il segnale. Lui prova a vedere. Prova. Già va bene adesso. Alto, ma cosa arrivi? Cazzo, io non per 30, non arrivi di più, no, Alto. Chi può arrivare più forte di tutti è Franco, è vicino a me. Ma più forte non puoi arrivare, come fai? Si affonda la scala quasi. No, non hai capito, Lu. Volevo capire quanto tu arrivassi a me. Perché ho sistemato quella cosa. Dovrebbe andare un po' meglio. Sta scaldando anche meglio. Anche di me lo sta scaldando. Ah, comunque vai bene, no, bene, benissimo. Sì, non vedere quanto eri tu, capito? Perché dopo ha toccato metterci 40 e flop. Cazzo, dai, che comunque come adattazione va meglio. Chi dice, oh, boh, c'hanno un qualcosa che non va bene. Io ne ho uno qua, del capo grosso, quelli in ceramica sono per i miei. Vabbè, sono per le RG213, vero? Ah, ci può mettere anche quello riduttore. No, non è voglio con il riduttore. Voglio metterci quello là che stringe meglio. Gappa gappa. Va bene, dai. A voglia. Gappa gappa. Che bella che c'è la guerra, c'è. Cosa là di là non ho problemi da avvitare. Però se li cambiavo il coso, mettevo quelli di quelli in, come si dice? Quelli in ceramica, penso non c'erano tanti problemi. Cioè in ceramica, quelli. Il coso da avvitare glielo mettevo quello in. Di quelli in teflon. E quelli vanno bene. Sì, sì, alla grande, alla grande. Ciao. Quel piccino non accendeva che c'era il cavo tutto attorcigliato. Dove? Non compito nemmeno vado a sistemare. I foramari. Ma cosa si intende? Vabbè. Andiamo bene. Oi, Franco arriva a porta, tu. Questo Franco è su. Vai, prova, fra. Ciao Luca, buonasera. Ciao a tu. Cazzo, quasi sono zero. Capa, buonasera. Mi ascolti, sì. Ci arrivo, fra, ci arrivo a 9.20 io. 9.30, Lu. Siamo vicini a tu. Non potete pretendere di arrivare a 9.40, no? Capa. Allora, qua c'è quasi 9.40, sì. Guarda, ho fatto il potenza, com'è? 9, quasi 9.40, sì. Capa. I buoni amici che ti andavano già passano. Ciao, io che attacco una cosa a me. Prova a attaccare. Hai detto un attimino che va freddo, bovarino. Hai visto un altro più forte di me, arrivi pure. Forte Franco, aspetta un attimo che cambio radio, 2 minuti. E oggi va, che cosa va freddo. Beh Luca, è questa modulazione, ti piace? Sì, è bella. E vabbè, questo è il K. Già si intendi. Facendo a 10 watt, l'ho abbassato. E all'umidità tu anche una bellina mi fa. Bellina. Una pedagogia. Ma mo che più tranquillo, disturbi no? Cosa Luca? Aspetta, disturbi? No, negativo. Ma va bene allora. E prima facevo TVA e però abbiamo fatto una taratura con Claudio, la centralina va bene, l'ho sollevata ancora di un metro e ho risolto il problema. Che te lo fai questa antenna smota, vai, oh! Ah, non fa, un attimino Luca, era un casino. Eccomi qua, un attimino. Ma sei i nubi. Ho commutato. Adesso c'è più basso, cosa hai fatto? Zitta, zitta. Non è poco di coso. Di prezza. Guarda, siamo bene, no? Che? Prova. Oh, e tre prova. Già va bene, là. Rucca. Vabbè, aspetta un attimo. Cos'è Zanda di sovrappotenza? Facciamo scaldare i motori qua. Ora. Bulgariella, guarda se lo crepa questo. Vai a bravo, vai a bravo. Poi c'è posizione fra Ica. C'è posizione. Gabba, gabba. Ah, c'è lo scaldare il bambino. Vabbè, se ci puoi fare, capito? Siamo troppo vicini. Non passa a Luca. Prima Antonio mi ha fatto un bel. Quando stava la doccia era proprio. Niente, lo sentivo un po' in poco. No, Antonio. Già non so lui. Ora, ora. Migliorato ancora. Da me si è provato e si prova. E tre prova, no? Anche di modulazione. Che chi no che è una questione. Si è marabacci ci coccò. Su tre sei altro. Io non l'ho detto Luca, sto scendo con 10, se ne le butto a 100, vedi? Vabbè, ma sei anche più vicino a lui, E io c'ho la posizione, capito? La posizione vuol dire un bel. Lo so. Certo che vuol dire un bel, non un bel, no, di più. Vabbè, me l'hai fatta, è uno bravo di tre fatte, è la prima alta, è un caso, non ce ne te la fa. Attimino in occhi la situazione. Lo stesso, non so da Franco. Quanto è stato fra? Sei 9.40. Kappa, ora. Ora. Adesso al massimo, Luca, da te c'è 9.40 lo stesso. No, non è fra. Sul 30 allo 0, c'è un attimo. Attenzione, KK! Ora! Ma c'è stato quello che una bruga? Un bel ce la sta spingendo adesso! Oh Luca, guarda un po'! KK! Fra, adesso li sta spingendo tutti, com'è? Sì, sempre 9.40, sì! Kappa! Luca, guarda adesso la modulazione. Troppo alta, fra. Guarda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. No, troppo alta. Alla radio? E allora? Adesso lo passo a Antonio. Raga, che passi tu? Sì, 9.40, mi stai arrivando benissimo qua. KK. E Luca arriva più forte di te perché è più vicino, capito? Normale. Sì, ma tu scendi con 6 watt, bravo. Io sto scendendo con 5 watt, Luca. E perché Luca, guarda il segnale, 5 watt modulati. Adesso te lo dico. 10 watt, 10 watt, 10 watt, 10 watt, 10 watt, aspetta, 10 watt, 10 watt. Ah, bravo. Ma te quanto sono tu? Sei saturo, sì, abbassa. Fai bravo, fai bravo. Saturo sono, vero? Già. Lasciamolo così, dai. Che è meglio, vedi? Lascio così. Ma c'è, va bene, qualche falso controllo. Aspetta. Ma c'è, va bene, il PL è mollato, porca miseria. Lascialo così. Ciao, torno all'altra radio, è qua, questo è troppo amburotto. Andiamo, andiamo, che? Ma quello Luca non c'è, l'MB più 4. Sì, MB più 4 con il Superstar 3009. Lascia bene, una bella radio, di lusso. Questo pure è un coso, un MB più 4 modificato. Diciamo che già esce bene, però non è perfetto. Che cosa? La radio non è perfetta, è un po' barattolo. La mia? Sì. La passo un po', è troppo alta. Riesci a vedere? Ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, adesso va bene. Eccomi qua, sono ritornato. E dopo vicini. Oh, capa. Basta. Ho abbassato un po' la... Non c'ho tanta potenza, va bene così. E questo è il microfono normale. Quale? Questo qua che sto usando adesso. Ma quello è capa? Oh, questo è il Magnum. Va benissimo, va il Magnum. E già lo credo che andava. Guarda, c'è un radio che non gli fa niente, tu attacchi e parli. Questo non è altro. Esce... Lo posso aumentare, diminuire, fare quello che voglio, capito? Anche la radio, tutto, capito? Adesso ce l'ho a due, di preamplificazione, tutto lì. Però va benissimo, va. No, ma quelle cose lì vanno bene, vanno benissimo. E se li usi bene ti durano una vita, se stai sempre a toccare è un problema. Ah, io già non sono di quelle. E così, magari. Ciao, una volta che io ho il sistema è a posto. E vai fatti. Non avvare la candela, sta sempre ducchendi. Ciao. Comunque c'è un bel forte, mi cavolo, dici. Da lì, cazzo. Ma guarda il banguro bicchi. Non è male. No, mi piace. Ma le fate casino, pure in chiave. Perché c'ho le cuffie, capito? Ah, ti sento dentro. Vabbè, mi sta scoprendo a vedere come sta uscendo. Ciao, no, va bene qua. Via. Oh, via. Luca Ariello. Attimi, no? Sì, fai. Io Luca ti arriva a quasi 60, così è. E Luca arriva quasi a fondo scala. Vai tu. Ma è lì, cavolo. Io sono frustrato, sono a confronto a voi. Ma Luca è attaccato a me, si può dire, dai. Ugrida, sei lontano, eh. Ah. Cioè, magari lo vedi pure con l'antenna, se ti vedi. E con l'antenna no, però è vicino. Ma il segnale comunque è lì. È tutto convogliato lì. E vabbè, tu arrivi 9.40, ecco. Già, va bene. Io a poco fa stavo pilotando con l'altra radio, capito? questo adesso è il magno, sto provando questo. Ogni tanto l'accendo a farlo funzionare, se no si rovina. Mangio una buona radio, però mi piace l'S980 a me. Dille? L'S980. Il 680? Magnum S980, quello che c'ha il coso... Così, come quello che c'ha Gianni. Ah, vabbè. Diciamo che sono le stesse radio, cambia l'estetica della, del frontalino. Però quello lì è bello, cavolo. Ma così. Era un attesi, ma... Sì, rimane più bello di questo, dai. Sì, niente da dire, però, cavolo, quello là è... Sì, davvero. Ma cosa buru, ce n'era uno, 120 euro. Andiamo via. Lo stavano vendendo un radioamatore, 120 euro, il magno, l'S9. Mamma mia. Stiamo attenti da che rubigli. Casino, Cappa. Io sono attento da chi lo prendi, perché con la razza sono particolare, hanno quel tipo di radio lì, alcune hanno un problema a frequenzimetro. E tutti quel tipo di radio, problema del frequenzimetro, capito? Sì, già lo so già. Vabbè, che ci vuoi fare? Però cavolo, di modulazione sono una bestia. Sì, di modulazione. Io adesso tu pensa che c'è il Michele A2 è qua. Se la metto c'è pure in saturazione. Vai tu. E c'hanno la radio diversa dagli altri apparecchi, capito? Sì, no, sono... Vabbè, li hanno fatti per quello, li hanno fatti il top per queste cose qua. Vada. Cioè, li hanno costruiti per essere più migliori degli altri. Sì, io ne cambio. Avanti. Tu l'ecco non mi piace assai, Ah, già, va bene. Non lo uso quasi mai io, capito? Diciamo che è fastidioso. Un po' così è fra. No, però sono buoni come apparecchi. Cavo. Problema che uno che c'ha una persona che conosco io, gli ha dato difetto a quella roba lì, ha detto che non commutava neanche nel canale. Ma la stessa radio di questa? No, l'altro, l'S9, quello normale. No, ho capito, che problema c'aveva? Non li cambiava, non andava sui canali alti, solo 40 canali faceva. Quegli apparecchi sono nati male, tutti quanti quegli apparecchi danno problemi. Già lo so, già, è un casino aggiustarli. È un casino. Pazienza ci vuole a fare le cose, poi già si fanno. Lì ci vuole attrezzatura, mi sa. Ci vuole attrezzatura giusta per farlo. Certo. Sono apparecchi belli, però danno problemi. Lui. Qua gli apparecchi belli sono le cose, le HF, non venne. Lo so. Cosa fai? I baracchini contro baracchini, per carità, sono soldi buttati. Lo so. Diciamo che se sarebbe stato, sarebbe stato il top quello là. Lo so. Forse se ne avevo 80, quello lì è forse meglio. No, io ce l'avevo in mano una. L'ho ritornato al padrone perché gli mancava, c'era un problema sul frequenzimetro, capito? Sono basso in tastoria. K, gli mancava l'ultima cifra e praticamente la prima cifra. Nuovo. Tutti i gusti sono. Cosa tu? Tutti i gusti sono. Danno quei problemi lì, purtroppo. Sono bella in radio, però c'hanno quei problemi. Quell'antifa, capito? Tutto qua. Sono buoni, ma... hanno avuto piccoli problemi. Chissà parecchi vanno i problemi. E non è poi giambò, capito? Tutto qua, che be. Stavo controllando se c'erano stazionarie. Non ce n'è, a posto. Va bene così. C'è troppo di luce, sì. L'ago si muove poco. Percepibile, raga. E che sono a teme già tarate, capito? Cioè, ma vanno veramente bene, vanno. Ma tu? Ma che sono i corsi, Dani? Andano più che è bello. Certo. Hanno appigliato due, mami. Allora, cosa sai, Giva, e quindi non me le dirai in antenna. Vabbè, la mando fa 5 e mando fa 5, non ce n'è. Però anche questa già va bene. Magari ci avrà meno ricezione delle altre, però. No, ma mica tanto poi. Cioè con la moto fa 5, se la metti in bassa fa tipo a nastro. No, la moto fa non bisogna antenne, no. Anche io la penso così, Luca. Secondo me è il numero uno. Io c'ho la 5. E tipo su di che, vabbè, purtroppo quando piove mi fa un po' di cosa, di stazionare, ma a uno e 5 mi salgo, no? Dovrò buttarla giù, dare una pulita, però non l'avevo piazzata qua, una bombetta. E io non ce la pepo lo stesso. Ma non mi sono fatti 50 qui, fettissimo. Oh. Io purtroppo me l'ha rovinata il vento, capito? Si è fatta tutta a pezzi. Che dici che la chiamata mi l'ha matto, magando, dopo. No, ma manco un sogno. Sei resistenza, Vanni, va. Andami via, Giulia, tu vieni in plano di piazzata, sì. C'eri tu, Mario Mao e Claudio, se ti ricordi. Andami via, Giulia. Un bel di anni. Quindi ne ha preso mi di tempini, ne ha preso un bel. È una signora antenna quella lì, Lucaria. Va bene, non posso lamentare. Va bene, solo ripeto, la devo buttare giù, la devo pulire. La faccio appena un attimo, lo faccio. E la porti giù, gli dà una pulita e poi la ripiazzi. No, la pongo in freezer un po'. È una verità, già va bene. Adesso vediamo quanto è riuscita c'è questa Venom. È quella che c'ho io, Certo, ma secondo me va bene, no, non ne ha problemi. Era giubbotta proprio perché così me, non era che la volevo ritogliere e mettere in un'altra, però lascio quella. Guarda, va bene, lascia perdere. Esce un bel fuoco, Sant'Enna. Io qua arrivi fortissimo, ma poi ti sentono tutti, no? Non è un problema. Questo viraggio mi la mato va 5, se non voglio piazzare. È troppo pesante. Non lascio questa, è leggera, va bene, cosa me ne frega. Già andava bene. Cos'è? Che da meno nell'occhio, capito? Quale? Quella lì. Infatti, sembra una tenne VHF. Appa. Ma cioè, poi magari c'è radari più corti, quindi no, i TVN da di meno. Chi da la moto bisogna stare attenti, mi dicono una certa attenzione a disturbi. Ah, ma la moto fa l'altro, la moto fa l'antenna che costa un po' di soldi. Vabbè, adesso guarda, se le formi usa fatti di pagare 200 euro. Comunque questa qua è costata, se non paio 150, me lo fa. Ne ho visto una che la stavano vendendo lì a quel sito radioamatore, la stava dando 290 euro, nuova. Ma sono antenne fatte bene, dai. Come fa la gente a dire che è meglio la... Sì, ma la chiamata è un'ottima antenna, niente da dire, perché già ne esce bene. Giulio esce bene, però non la puoi parlare con una mattofa 5, una mattofa 1. Sai che Giulio ci aveva la cosa, la mantova la turbo, mi sa. Ma guarda, no, la verità è, non sono neanche tanto d'accordo, va. Questa Game Master, tutti quelli che ce l'hanno non è che abbiano dei segnali super, che cosa però. A Mantova è Mantova, non si discute. Oh, e avanti. Chi è che vuole entrare? Luca. C'è quello che la difende entrare. Va. Avanti, ciao qua. Buonasera. Buonasera oggi. Non ero io, comunque. Capo. Ciao Eugenio, buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti. Il master è un ottimo compromesso, se ti serve un'antenna leggera che funzioni bene, va bene, capito? Poi non sono stato d'accordo con te, ma al tuo gruppo, che la Game Master non ha segnali. La Game Master va bene con l'antenna, e va bene anche con la posizione, come vuole anche per la Manto qua. Beh, però sono convinto, perché ho visto delle prove che hanno fatto, sono convinto adesso tu mi arrivi 7 qua. Se avessi avuto un altro, ma minimo me l'avrei di 8 o 9. Perché la differenza c'è, l'hanno provata l'anno. Guarda, in trasmissione. Trasmissione sono anche tutte e due uguali, quindi nel senso che. Cambia qualcosa, magari cambia ricezione, quella là ai radiali magari cambia qualcosa di ricezione sicuramente, ma nessuno mette in dubbio che la Mantova sia superiore, attenzione. Però per uno che ha, che ne so, che vuole anche una leggera, non vuole radiali, la Game Master è più appropriata. Lo so, però a me non. La verità, non mi ispira fiducia. Ho detto la regola 3, la Energy 5 ottavi, con i radiali, e con questa ho visto che addirittura i segnali arrivano più forti di quella di rispetto alla cavia prova, capito? È più sorda, Dicevo meglio, addirittura quando parlavo a fil di ferro di Chiedo Arrugginito da Muros, sentivo Santiago, proprio mi arrivava uno con la 5 ottavi, con i radiali. Con questo mi arriva Santiago 3, riesco anche a parlarci, cosa che non facevo con l'altro. Andiamo bene già. Ciao Eugenio, la Mantova è Mantova, non venuta di va. La Mantova è Mantova. No, attenzione, non sto dicendo che sufficientemente hai ragione. Però, succede, se uno vuole un compromesso, le serve un'antenna leggera, che funziona bene, la Game Master è la più appropriata, perché non mi puoi mettere 7 kg di antenna della Mantova contro 2,8 kg e qualcosa, 3 kg della Game Master. Capito? Io sto dicendo un ottimo compromesso, la situazione è più forte della Mantova, assolutamente no. L'antenna anche, bisogna confrontare le tempirie e la durata, no? È che l'antenna riesci meglio, ma non è così, anche le tempirie. Ci sono molto perché che durano anche 30 anni, vabbè, lì sarà di male da te, male un po' di meno, perché se la mangia la salsiglia. Sì, va bene, detto questo signore, dopo chiudere che c'è gente. Ci sentiamo domani, se coincide, buonanotte a tutti, ciao. Caro G, buonanotte, ciao. Ciao, buonanotte G. Buonanotte G, dai, ce la riascoltare il prossimo. Ma chi sei, Franco? Capo G. Ah, ok, la migrazione. Ciao a tutti, ciao, buonanotte. Ma Franco, ti arriva bene oggi, no? Ha voglia. E ti grido, mi hai di fronte. Non sono bravi, Franco. È in alto, è lui, in alto. Arriva bene lì per Porto Torre, Salghiero, Sorso, tutta quella zona lì la copre bene. Franco, non devo andare dove? Da San Camillo, così, no? No, al monte, vicino a me. A Monte Alto. Cappa. Lui è molto più in alto di me. Ma Franco Bari, andiamo due oggi a Bari, in viaggio di Porto Gaia. No, va bene. Vai ragazzi, ci sentiamo, ciao. Ciao G. La posizione lì è strategica, è micidiale. Tu lo sai dove abita Franco, sì? Chi non lo so tu? Ah, lo sai, Cazzo di giù. La mia posizione a Puglia. Anche quando ce l'aveva prima usciva bene da lì. Forte era. Permetti Luca, quando va più la Mantova 5 è sopra. Tanta musica era. Pensa tu che c'erano quasi 10 metri di tubo. E anche alto, è vero, sì. Le cose di fare bene. E a me non posso fare più di tanto. Non ero Mattessi Muro che va per di voi, fra. Qua è un casino. E chi c'è peggio? No, io, tu a me non lì c'è blocchi, c'è cantoni, io ci faccio chi si forati, quei forati larghi, dai. Ah, Forattini, sì. Allora. Insomma, fa parlare antica, cimentate, vanne cibiù, con le cose tagliate, con le cose messe a cavallo, con la parte del taggiamento, domani che ne rampi più. E questo che c'ho io, praticamente sopra, è tutto tra kit, E forse, già. A voglia, che cazzo avessi il regge? Stato a fare un cucco, via. No, mi tipo un mazzo di tra kit di chi si massima anni, anni, anni. Chi piglia... Chi piglia la cruda, ma di chi si manni, di chi si è appiatto un fianco, no, chi si è dritto ovviamente. Allora, non puoi mettere anche così com'è, o di chi si manni, si piazza l'antenna, mica ci muovi. Magari, cazzo urla, mi puoi smuovere un cazzo un palo da 40 metri. Cazzo, è vero. Però non muovo, come fa a muoverlo? Andiamo via, andiamo. Andiamo bene, andiamo, che fa però? Che va, va benissimo, va. Cioè, va veramente bene anche l'avveno, ma fino adesso è 10 all'ora. Ma questa antenna qua l'hanno vantato come di gente, è brutta da vedere, però già va bene. Ma c'è non è vero, non è vero, l'ho visto io, è carina come antenna, non è vero. Qua ti posso dire che stai dicendo cavolate, fra, perché è molto bella come antenna, l'ho vista, è molto carina. Piccoli, c'è radiali, tre radiali piccoli, 5 ottavi. Va bene, fra, va bene, non vedo di più. E con chi l'hai piazzata, fra? Eh? Con chi l'hai piazzata? Aspetta, io e coso, con Manuele l'avevo piazzata. No, va bene, va bene. Non c'ha stazionaria, non c'ha niente. Ma dove l'hai preso, da internet? No, era di Fabio Masse, ma la sa lui. Di chi era? Di Fabio Massel. Fabio Massel, che è? È un tipo che è modulato a baracchino un po' di anni fa, forse non l'hai conosciuto tu. Fabio Master? Master, cioè. Ah, che cazzo oggi conosci da Fabio? Che è l'ex giovane alla sua pompoio. Cappa. Quanto costa questa antenna? Eh? Quanto ne costa? 2,5. Come? 25. Ehi, ma così poco costa? E così la data lui, capito? Nuova costa 60. La differenza fra da 34 euro a 60. Va. Nuova costa 49, 58 euro, più ci sono 5 euro di spedizione. Com'è che si chiama? Sigma Venom. La Venom? Sì, Venom, Sigma. 50 radiali. Non è della Sigma, non so che marca sia. Sa che Sirio, no Sigma. Sigma è come la mantova. Sì, sì, Sigma. Beh dai, io chiudo che mi voglio guardare un po' di film, dai. Ciao Antonio, ciao Luca, ce la sentiamo. Buonanotte a tutti e due e ce la riascoltare in prossima. Ciao fra. Mi guardo un filmone adesso. Cappa, stai metti in gocco invece. Adesso una domanda va stare bene, ciao. Cappa, ciao. Ciao fra, ci sentiamo. Ok, pure io chiudo. Ciao, buonanotte, ciao ciao. Ciao, buonanotte a tutti e due, ciao Antonio, buonanotte. Ciao ciao. Sì, ciao, buonanotte ragazzi, ciao.